Cupa Cupa. Cupa Cupa. Che cos'è Cupa? Cupa vuol dire triste, un po' triste, scura. Un po' merda. Scura. Scura. Sì, scura. Sicuramente. Sicuramente scura. Sicuramente sicura. Allora, che vuoi sapere? Abbiamo in questa puntata il più grande musicologo francese di tutti i tempi. Merda, dove sta? Sei tu. No, no, non posso essere io. No. Però no, sono contento perché fa molto tempo che che non suonavi il pianoforte. Eh no, che non parlavo alla gente di Coxo Spaziale. È vero, è un sacco di tempo. Sì, almeno... almeno 10 anni. 10 anni, sì. Però 10 anni fa non c'era ancora Coxo Spaziale. Allora è un altro programma, forse. Forse era un altro programma. Ma hai fatto l'intervista per quale programma? Ti ricordi? A Elia Media? Non lo so. Boh. È un programma dove non so di che parlavo, ma tanto l'avevo fatta al telefono. Ah, allora era Coxo Spaziale. Sì, era Coxo Spaziale. Hai ragione, sì, abbiamo presentato il tuo nuovo disco. Sì, esatto. Era, quando era? Quando c'era Tandeman? Sì, quindi nel 2012. Ah, un po' di tempo fa. Ma non tanto. Non tanto. Non tanto. Quei 7-8 anni. Sì, no. E allora come va? No, come va tu? Sei arrivato da Marsiglia così... in fretta e furia all'improvviso sì, per raccontarci che cosa stai combinando musicalmente niente di grave sì. No, niente che danneggerà la storia della musica. Ah, molto bene. Senti, ti volevo chiedere, ma di solito all'inizio della trasmissione cominciamo subito con una canzone. Che cosa vuoi ascoltare? Cosa ci farai ascoltare? Devo scegliere io la canzone. Eh sì, però che sia scaricabile da YouTube, se no non sappiamo come farla ascoltare. Sì, hai ragione. Allora, forse una canzone italiana. Ah, cominciamo sì. con la Concetta Barra. La Concetta Barra? Sì, una cantante napoletana. La conosciamo tutti, naturalmente. Sì, cantante napoletana degli anni 60. È con un pezzo che si chiama Maddalena. Che fa Maddalena, chi ha vuo vergine, chi prena, uè, Maddalena. E così. Adesso lo ascoltiamo. Eh sì, un piacere. Maddalena, non abbiamo fatto le introduzioni, siamo qui con Manu Terron, che prima ti avevo descritto come il musicologo più importante di tutta la Francia. In realtà sei un semplice cantore. Sì, un cantore anche molto più semplice di quanto si pensa che sia la semplicità. Ok, però un cantore che a Marsiglia tutti conoscono. Tutti quanti, non tanto adesso, sai, no. Mi sono fatto un po' scordare, ma mi piace la situazione quando ti scordano. Certo. Ma mi chiedono ancora di essere assessore alla cultura, una cosa che non voglio. Ma la domanda è: perché ti chiedono di essere assessore alla cultura? Perché sono messi così male? Sì, sono molto messi male. E io mi lascio andare a dare il mio avviso, il mio contributo stupido sul fare l'arte nella città Marsiglia e sulla cultura. E quindi faccio dei biglietti nella stampa locale, faccio degli articoli. Ah, okay, sulla cultura, degli articoli sulla cultura, anzi su Facebook ogni tanto faccio delle cose sulla cultura Marsiglia, perché Marsiglia è una città che è stata 40 anni di sinistra e ora da 25 anni è di destra a destra. Ah, da 25 anni? Da 25 anni, è di una destra abbastanza razzista e vendicativa, anche perché è composta da gente che ha combattuto in Algeria negli anni 60, capito? Quindi gente razzista, gente abbastanza nazionalista e gente un po' stupida che gestisce la cultura molto male. Anzi, ti dicevo prima, nel Museo d'Arte Contemporanea c'è stato l'inondazione, che 25 quadri di Dubuffet sono stati annegati e che il sindaco ha dichiarato che comunque non era un bravo pittore. Sì, una cosa del genere. Fra l'altro sono 5 milioni di euro. Ah, è certo. Capito? E lui lui ha messo le mani avanti, ha detto tanto comunque è un cattivo pittore. Sì, sì, sì. Per cui non c'è bisogno di restaurarli. Sì, cioè, no? Esatto. Ha pure detto, cioè, ha fatto dire dal conservatore, dal capo conservatore del museo, che l'inondazione anche avrebbe un po' ripulito la cultura pitturale marsigliese, perché è stata nel Museo di Arte Contemporanea, che comunque sta gente non sa dipingere, ma lui è il direttore del Museo dell'Arte Contemporanea, capito? È una cosa del genere. Non il direttore, perché è il direttore del municipio, ma lui è il conservatore in capo, capito? Il capo conservatore della cosa. Ho capito. Quindi lui dovrebbe almeno sia tentare di salvare le cose. Sì. Tacere forse sarebbe stata la cosa migliore. Sì, ho capito. Ma invece il tuo coro, tu fai anche, di quanti cori fai parte? E poi sei anche un insegnante di un coro, giusto? Sì, allora. Come si chiama il tuo coro? Ci sono vari cori. Vari cori. Il mio coro principale si chiama Le Cor de la Plana. Le Cor de la Plana, che abbiamo anche sentito qua a Coxo, sì, Spaziale. Sì, sì, ne sono molto fiero, sai. Molto bene. Sì, e quindi Le Cor de la Plana non gira come una volta che giravamo 80 date all'anno. Poi sono 20 anni che ci conosciamo anche troppo. Aspetta che ti interrompo, perché vedi, questo è Yamamei. Sì. Ed era il ristorante di Ana. Merda! E adesso invece è qua di fianco. Adesso ancora. C'è ancora, però è diminuito. Yamamei? Che cos'è? Non ce l'abbiamo a Marsiglia, Yamamei. E vendono intimo reggiseni femminili. Bravi. Ok. Bravi. Reggiseni soltanto femminili, però? Penso di sì. Non so se hanno anche reggiseni maschili. Vieni che ti faccio vedere invece. Ah, è chiuso per ferie, naturalmente. Sì. Ah, però, sì. Vedi, c'ha ancora. Sì. Ma il Diana sembra un ristorante tutto statale. Assomiglia ai ristoranti statali della Bulgaria degli anni 80, capito? Anche la livrea. Speriamo che non ci facciano causa, no. per questa dichiarazione. No, ma lo penso. Per me è anche una positiva. Qualità. Certo. È anche una qualità di essere un ristorante statale. E che vedi? Ah sì, pure scritto. Non l'hanno tolto, però. L'hanno osservato. L'hanno lasciato. Sì, che quello è stato carino, dai. Sì. Lasciare la scritta ristorante. Poi scritta negli anni 50, mi sa. Infatti, a mano, si vede. Sì, sì. Bello, bello. Che stavamo dicendo? Stavamo parlando degli altri cori. Ah sì, gli altri cori. Quindi c'è

da trani là. Luca Zeppencino, dentro un succhetto. Luca Zeppencino, dentro un succhetto. Lunghe gli arsi levo, le mai un succhetto. Oh la la, oh la la, oh la la, oh la la. Papi li ho fatto, si è metta a pluno. Papi li ho fatto, si è metta a pluno. Papi la sta male, lupo le chitò. Oh la la, oh la la. Estación Matilla, Luque y Murirá. Estación Matilla, Luque y Murirá. Toda la riqueza, la riqueza, te mudará. Hola, directo, directo. Hola, directo, directo. Hola, directo, directo. Hola, directo, directo. Hola, directo, directo. Al diable la riqueza, la riqueza, la máquina y mara. Al diable la riqueza, la máquina y mara. No me imagino, no me imagino, me que me bate ese tal. Directo, directo. Hola, directo, directo. Hola, directo, directo. Hola, directo, directo. C'è un altro coro che mi è stato chiesto da un poeta nostrano, che scrive in provenzale, poeta, l'unico poeta Beat Generation che scriva in provenzale. Ma dai. Quindi lui è molto influenzato da Ginsberg, da Kerouac, da tutta sta gente, e scrive pure lui. È un poeta che ho conosciuto camminando della foresta dietro Marsiglia, l'ho incontrato, abbiamo parlato, io ho scoperto che parlavo provenzale, poi che era un poeta, poi ho letto le sue poesie, sono enormi, poi tutte le poesie sono tradotte in 50 lingue, quindi le potete pure trovare in italiano. Oh, wow. E lui si chiama Roland Pécou, e quindi mi ha chiesto, Roland Pécou, e mi ha chiesto di adattare 12 poesie sue per coro, quindi ho cominciato a lavorare su questa cosa 3 anni fa, e poi si è dimostrato che non volevo fare uno studio su una persona, capito? Già perché lui non ne ha bisogno, secondo me, e poi che l'interpretazione mia aveva bisogno di altri elementi, quindi gli ho chiesto di darmi anche da adattare delle poesie che gli piacevano. Quindi mi fece fare un'adattazione di Ginsberg, una di Kerouac, una di Pasolini, una di Rimbaud, una di Hafiz, e un'ultima altra di Pasolini, e io ho registrato quella di Pasolini, se vuoi, perché cantiamo in italiano. Ah, che bello. Sì, cantiamo la possiamo ascoltare allora? Sì, la possiamo ascoltare, senz'altro. Ottimo. Ricordi di quella sera ruda, quel nostro darsi insieme a un gioco di pura passione, misura della nostra cruda gioventù, del nostro cuore ancora poco più che puerile, era una lotta bruciante di se stessa, ma il suo fuoco si spandeva oltre noi. La notte ricordi, nera tutta piena, nel fresco vuoto, nelle strade percorse, da flotte di braccianti, vestiti a festa, di ragazzi venuti in bicicletta, tutta i borghi vicini, e la festa quotidiana cristiana a piazzetta ne fiottava come in una sagra. Noi non popolai, non popolani, nella stretta del popolo contadino della magra folla partigiana. Amati quando ci ardeva la mare, feriti dalla gran notte che dal loro, stanco ritorno. Dai campi nell'odore di fuoco nelle ceneri, uno a fianco all'altro gridavano le parole che quasi comprese, erano promessa sicura. E la bella bandiera nella andava più in luce del lumino dal sole. Paesaggi spaventosi. Sono Paolo Astei e sto ascoltando Coxo Spaziale. Ciao, sono Paolo Astei e anch'io ascolto Coxo Spaziale. Ah, dici? Come si chiama il coro delle signore? Il coro popolare femminile dell'Occitania. Ah, dell'Occitania. Dell'Occitania. Si dice Occitania, sì. Occitania, Occitania. Ok. Cosa succede qua in piazza? Un cazzo. C'è sempre nessuno di... Però perché non hanno fatto un culo così brutto? Non è granché il culo del Nettuno, no. Effettivamente. Però se vieni da qua è già più interessante. Merda? Ma questa è la mano? Sì. Ma è interessante comunque. Non lo sapevi questo trucco? Non me lo ricordavo. Sicuramente 20 anni fa te l'avevo già fatto vedere. Sì, no, l'avrò visto anche da solo. Secondo me ci sarò andato di notte a controllare. C'era ancora alto. Qualche amico, poliziotti, carabinieri, delinquenti, mamme, genitori, cazzo. Thank you. Allora Manu, quali sono i tuoi progetti per il futuro? Allora, mo vado a Cingoli per vedere una certa Giulia che è coinvolta nella storia di Manifesta a Marsiglia. Che bello. Quindi in progetto sarebbe di invitarti a Marsiglia a venire, se ci riusciamo. Ci proviamo. Ci proviamo comunque. Poi, altri progetti, c'è un disco che esce a novembre con i famosi Polyphonic System. Ah. Allora, sto disco te lo mando, così lo fai sentire. A Coxo Spaziale, naturalmente. Spaziale, sì. E poi un po' ovunque, a Bologna. Certo. Sì. E tanto anche ai Belle Arti di Torino. All'Accademia di Torino, certo. Accademia di Torino, che secondo me gli cambierà un po' la posizione concettuale. Magari. No, non sono sicuro. E poi niente, poi c'è un altro progetto con il poeta provenzale, questo progetto già sta andando bene. Poi il Luco della Plana, facciamo un disco, no, sto di continuo al lavoro. Non ti fermi mai dunque? Ma mi fermerò quando venite voi a Manifesta, mi prendo una settimanina così. Ci rilassiamo un po'. Ci rilassiamo un po' nell'arte, nel come dire, nel mare senza fondo dell'arte contemporanea. Esatto, nel mare senza fondo dell'arte contemporanea. Bene, io ti ringrazio moltissimo di essere intervenuto a Coxo Spaziale nel mezzo di agosto e poi ti auguro tutto il bene possibile. Ti ringrazio, io altrettanto e tanti saluti a tutti quanti. Altrettanto. A presto. A presto, caro Stefano. Ci lasciamo con naturalmente un pezzo dei tuoi. Sì, e il pezzo è bello, si chiama Bel Pezzo. Bel Pezzo. Bel Pezzo. Ottimo. Ecco. Ecco. A presto. Ciao. Ciao. Che le ho un cupo la testa. Embarrado senza gente clau e lei sa tengo amicumo desclau arrivo finco país. Senza danger. La caribou enquisto de succede papier que les tracé di pistu nos destina y espita pa cu esta visto que va su pu se qu'une star assista. Les menaces d'un parfait est un livre et nous à l'ombre pour mon mazelier libio. Les pagouns c'est que ça trouve les avènes un tantico. A toujours les espérances, l'ouvain de la vénitou. Les pougis en cabousans, a ruiné crébadou. Et les menous à l'ombre, mais les lignes pagouns c'est qu'à trouve un avènes un tantico. A toujours l'espérance, et la vénitou. Che animale è quello? Non c'è nessun dono. Ah, gallo, gallo. Ah, il gallo. E questo? C'è nessun dono. No, uccello. Un uccello. Sei brava a fare gli animali. Ma viene dalla campagna? Dai, fa un tempo. Allora, non sono. 你在农村生活吗？没有。 那你在哪儿见到这么多动物？宋园。 谢谢。 我跟着我爸学的。谢 谢。那你巴拉多的爸爸，你们知道。 I due minuti di Lolli hanno una durata percepita variabile. Blue moon, you saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you know just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And then there suddenly appeared before me the only one my arms will hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked to the moon, it turned to gold, blue moon. Now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Già finito? Già finito? Willa, ciao Stefano, tu bene? Ascoltami, niente, questi qua i Moderat, li ho visti al Vox, parliamo un po' di anni fa, ecco, supersonici. Dai che ci vediamo, ok? Dai, intanto un abbraccio, grande, ciao, rock. Penso che sia nel 91-92 che li ho visti al Vox, perché ero con la mia fidanzata, adesso non mi ricordo bene perché le fidanzate erano troppe, quindi non mi ricordo tutte le date. Comunque sì, visti il Vox e il weekend successivo c'era Incognito e James Taylor Quartet, sia il periodo Acid Jazz. Ok, ciao, presto. Thank you. e dal suono delle campane di festa di Pennabili vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Coxo Spaziale venerdì prossimo alle 20 sempre sulle frequenze di Radio Città Fujiko. Io ero Stefano W. Pasquini e questo è il nuovo singolo di Jenny Owen Youngs. I swear.